quando ci hanno invitato a Palm Beach abbiamo accettato proprio all'istante, perché come dicevi tu, qualche giorno dopo ad Orlando c'è stato il convegno mondiale sulla SLA, a cui io ho partecipato, Claudio ha partecipato, abbiamo presenziato, abbiamo portato davanti a tutto il mondo il nostro progetto, tanto che abbiamo ricevuto dei consensi veramente insperati. Gli inglesi avevano addirittura stilato una classifica delle nazioni più ottimiste per quanto riguardava la SLA e la malattia. Bene, l'Italia era risultata al penultimo posto, al nono posto su 10 nazioni. Dopo aver sentito del nostro progetto e di quello che sta facendo l'AISLA e il suo presidente Mario Melazzini, gli inglesi hanno detto: scusate, ci siamo sbagliati, dobbiamo ristilare la classifica. E di questo noi siamo molto orgogliosi.